Spediti dall'inferno fin quassù. Questo è Fresh Meat, WZ Crew. Notte nera, oscura dal 2000, regno blu. Delle gemme dei tuoi timpani, ci abbiamo il passepartout. Demoni, spediti dall'inferno fin quassù. Questo è Fresh Meat, WZ Crew. Notte nera, oscura dal 2000, regno blu. Delle gemme dei tuoi timpani, ci abbiamo il passepartout. La sensazione che spinge ste persone a fare di ogni traccia un'occasione per scuoiare un impostore. Aprile la città, la città, posizione da cui traggo ispirazione per narrare le mie storie. Scorie radioattive, corrosive come le mine, cattivo con l'esplosivo, ci do suon di rime assieme a Cupo JD1. Sfoggi di stile che viene dal vinile, dalla tua fottuta pile. Non sono un vile, fammi sentire che quelle che c'hai nella schiena non sono alcaline. Pile dura c'è, ma tu non ce l'hai, ci tiene a illuderti. Mantieniti a distanza debita, dovremo abbatterti. Attacchi di cuore, spasmi, brividi e terrore. Provochiamo gli imbecilli che non sanno il nostro nome. Non serve Dario Fone e Franca Rame per vedere chi lo fa davvero, chi è solo un attore. Come? Come? Tu vuoi un'esibizione gratis? Sto gruppo non è un cesso e in fronte non c'è scritto gratis. No, io butto sangue sopra il palco come l'Avis. Non mi svendo come i piatti che ti sei comprato al Sidis. Facciamo hip hop, zero cloni delle lollipop, zero merda che acquisti sugli scaffali e beauty shop dell'Ipercop oppure di MZ, la WZ finché cazzo resto in vita. Demoni, spediti dall'inferno fin quassù. Questo è Rizzo, WZ Crew. Notte nera, oscura dal 2000, regno blu. Delle gemme dei tuoi timpani, ci abbiamo il passepartout. Demoni, spediti dall'inferno fin quassù. Questo è Rizzo, WZ Crew. Notte nera, oscura dal 2000, regno blu. Delle gemme dei tuoi timpani, ci abbiamo il passepartout. Angeli caduti, mo bramano vendetta. Nulla servirà, tutta quell'acqua benedetta. Da Lucifero in persona ci ha mandati sulla terra per appiccare il fuoco tutta quanta questa merda. Saliti dalle tenebre è difficile capire che vi ridurremo in cenere, ci senti rantolare. Se ci pensi fin dei conti il fatto è quasi elementare. Spazzeremo via ogni vostra cellula mentale. Voleremo nella notte come pipistrelli. Strapperemo via la vostra pelle a brandelli. Mangeremo il vostro cuore, berremo il sangue. Caveremo dalle vostre gole le lingue. Le vostre sono vite inutili e banali. Ripuliremo il mondo da voi stupidi animali. Volete solo soldi, sesso e potere. Già siete all'inferno e non lo sapete. Pagherete caro il male che avete sputato. Satana ci ha dato armi per il vostro fato. Pregate senza fine se potete il vostro angelo, non appena sentite il rantolo del diavolo. Demoni, spediti dall'inferno fin quassù. Questo è MC1, WZ Crew. Notte nera, oscura dal 2000, regno blu. Delle gemme dei tuoi timpani, ci abbiamo il passepartout. Demoni, spediti dall'inferno fin quassù. Questo è MC1, WZ Crew. Notte nera, oscura dal 2000, regno blu. Eccomi qua, direttamente da qua giù sono io, detestato da tutti e colmo d'odio. Terzo incomodo su questo pianeta cometa, arrivato per distruggerti con la WZ. Contro ogni congrega, contro ogni profeta, la mia vendetta contro te sarà dura e perfetta. Per te ogni tentativo una disdetta, per distruggere il mio impero in tutta fretta. È inutile che esisti, forse tu non mi conosci. Che se fosse, probabilmente non ci riusciresti. Guidato dall'ira, l'odio mi attira. E con un soffio la tua vita al mio cospetto sospira. Vibra l'aria al mio passaggio, come un raggio. Penetro nella tua mente, creando disagio. È inutile il coraggio, il tuo cervello in ostaggio. E ti sbagli di grosso, pensando che il mio sia soltanto un montaggio. Altro che plagio, appaio innanzi a te come fossi un miraggio. E in un retaggio, porto la tua persona intraprendendo questo grande viaggio. Non gareggio, più l'ignoranza pervade più mi posteggio. Davanti a uomini e senza pietà non indietreggio. Demoni, spediti dall'inferno fin quassù. Questo è JD1, WZ Crew. Notte nera, oscura dal 2000, regno blu. Delle gemme dei tuoi timpani, ci abbiamo il passepartout. Oscuro dei demoni, nostro signore!